America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Obama ha parlato ieri per circa 7 minuti dal Rose Garden della Casa Bianca per attaccare i repubblicani sui mancati aiuti ai disoccupati. Poi Larry Summers, il suo principale stratega economico, è uscito sul Financial Times con un articolo in cui dice che è possibile riconciliare le esigenze del rigore con quelle del rilancio dell'economia. Ma non basta un attacco concentrico contro i repubblicani. Una lettera di 16 economisti guidati da Joe Stiglitz e con Alan Blinder, tutto sommato un democratico moderato, quindi un gruppo direi abbastanza omogeneo, che di nuovo attacca e dice: questo non è il momento del rigore, ma è il momento della spesa. E dunque si ripercorre un po' anche quella che era la polemica transatlantica. Abbiamo con noi in studio Giorgio Barba Navaretti, professore di economia politica all'Università degli Studi a Milano, un economista internazionale al quale chiediamo subito come mai questo attacco concentrico, Giorgio, secondo te, dei democratici contro i repubblicani? Beh, perché in questo momento c'è sicuramente una grande incertezza. L'America non sta crescendo come dovrebbe, il paese è preoccupato, c'è una grande incertezza sulle riforme e sulla natura pratica poi che le riforme prenderanno, e nonostante sia stata approvata nelle settimane scorse la riforma del sistema di regolamentazione dei sistemi finanziari, è chiaro che c'è grande incertezza su come queste riforme verranno applicate in futuro. C'è grande incertezza per quanto riguarda la dinamica fiscale, se vogliamo, del paese, e se o meno verranno aumentate le tasse, le imposte in futuro e di quanto. E quindi questi fattori creano effettivamente delle condizioni molto difficili all'economia americana, ed è per questo che in qualche modo c'è un forte scontro politico su quanto forte debba essere il rigore, su quanto bisogna tirare i remi in barca o quanto invece bisogna intervenire e continuare a spendere per sostenere l'economia. Ecco, allora sentiamo le dichiarazioni di Obama. We all have to continue our efforts to do everything in our power to spur growth. Vi dicevo, il presidente americano ha parlato per circa 7 minuti, quindi un discorso piuttosto rapido. Accanto a lui 3 americani, 3 persone comuni, uno del New Jersey, un altro della Virginia, un altro del Queens, 3 disoccupati. Perché? Perché Obama sostiene che al Senato, nonostante 3 volte i democratici abbiano cercato di passare un progetto che possa migliorare le condizioni dei disoccupati, garantendo un'estensione dei sussidi alla disoccupazione, quindi quel flusso vitale di denaro che può consentire loro di continuare non solo a sopravvivere ma anche a sostenere l'economia, ecco, questo sforzo è stato bloccato dai repubblicani, i quali, dice il presidente, mettono i loro interessi politici davanti a quelli economici dalla nazione. Non so se è vero, Giorgio, secondo me il presidente si illude, perché dice, con un atteggiamento populista che poi ha contraddistinto la sua guida politica, che la classe politica americana, i democratici soprattutto, ha la responsabilità di dare sostegno a chi ne ha bisogno. Il problema è che il rischio è che questo sostegno vada a finire in un buco nero. Mi sembra che il dibattito sia un po' su questo, cioè questo progetto di stimoli di 787 miliardi di dollari alla fine ha dato qualche cosa, oppure è andato a finire in stipendi che non si sono tradotti in crescita sostenibile, in stipendi di vigili del fuoco, di poliziotti, di insegnanti, come dicono alcuni economisti? Beh, qui ci sono 2 punti importanti. Il primo, che però non sappiamo che cosa sarebbe successo se non fosse stato fatto il programma di stimoli, cioè se non ci fosse stato un sostegno alla spesa e ai consumi come è stato fatto, a che punto sarebbe l'economia americana oggi? Se non ci fossero state quei segnali di ripresa che ci sono emersi con la fine del 2009, nel corso già del 2010, eccetera, a che punto sarebbe l'economia oggi, la situazione? Beh, su questo, se posso, Giorgio, il presidente Obama dice e i suoi economisti dicono che il pacchetto di stimoli ha contribuito a salvare 3 milioni di posti di lavoro. Anche quello potrebbe essere opinabile. Questo forse è opinabile, però dall'altra bisogna anche pensare a una cosa, e torno alla tua questione sui sussidi alla disoccupazione, è che il problema della disoccupazione in America è enorme, perché un americano che perde il lavoro e che sulla strada effettivamente non ha più sanità pubblica, non ha più nessun tipo di sostegno al reddito, non ha più sostegno dalle famiglie, quindi la situazione è molto più difficile di quanto non sia per esempio da noi. E quindi è chiaro che questa è una preoccupazione centrale per il presidente americano, che in qualche modo va affrontata. Ecco, veniamo a Stiglitz e alla sua lettera. 16 economisti, Get America Back to Work. Secondo me ritornano un po' alle vecchie ricette di sempre. Spendiamo in modo da poter sostenere l'economia in questo momento così drammatico. Secondo te la spesa da sola serve? Sappiamo che i tedeschi, per esempio, non sarebbero molto felici di questa strategia. No, la spesa da sola in sé non serve, perché la spesa in quanto tale potrebbe essere un buco nero. Dipende che cosa si fa. È chiaro che in America il punto fondamentale oggi è come sostenere gli investimenti sul futuro. È chiaro che l'aumento della domanda di consumi aiuta, anche incoraggia le imprese ad investire, ma evidentemente non basta. Quindi il punto fondamentale è chiederci in che modo utilizzare le risorse pubbliche per sostenere gli investimenti e la crescita futura. Il nodo fondamentale dell'America in questo momento è che la crescita, per quanto sia di nuovo positiva, non è sufficiente. Ecco, veniamo a Larry Summers, grande consigliere del presidente. Sentiamolo. A year ago we were losing 600,000 jobs a month. Now the process of job creation has started. Ecco, Larry Summers cerca di portare un po' in avanti il dibattito, e cioè dice: gli economisti si sono fissati su una dialettica inutile tra lavoro e deficit, fatto che ha reso oscure, anziché più chiare, le scelte politiche che attendono gli Stati Uniti, l'Europa e gli altri paesi. Allora, ecco, e quindi secondo Summers, anche se i critici sostengono che l'impegno dell'amministrazione a sostenere l'economia nel breve termine, rinuncendo allo stesso tempo il disavanzo, lancia un segnale contrastante, ebbene lui dice non è vero, perché questa è l'unica via sensata. Ecco, alla fine di tutto questo, in questo grande dibattito, i repubblicani che resistono, che dicono si devono ridurre le tasse, i democratici che sono spaccati fra di loro perché c'è una corrente più centrista guidata da Geithner che vorrebbe così una linea più prudente, c'è una corrente più estrema guidata per esempio da Elizabeth Warren che vorrebbe un attivismo sfrenato del governo. Ecco, in questo dibattito non nasce forse l'esigenza di avere un modello nuovo che dia davvero qualcosa di nuovo? A me sa, sentendo questi dibattiti, mi sembra che così si vadano a rehash, a rimescolare cose vecchie. Dacci un'idea. Beh, difficile pensare quale possa essere il modello nuovo. Quello che è certo è che il quadro istituzionale degli Stati Uniti, che in qualche modo è ancora fondato su quello che era il mondo pre-crisi, è un quadro istituzionale che non è più sostenibile. Abbiamo parlato prima della disoccupazione. Sicuramente l'aumento del numero di disoccupati e la mancanza di un sistema di welfare adeguato che sostenga il reddito dei disoccupati e che favorisca il ricollocamento dei disoccupati in nuovi lavori è sicuramente un problema a cui bisogna riflettere. Cioè l'America senza welfare è effettivamente un'America che ha difficoltà ad affrontare diciamo i nodi economici principali che le aspettano nei prossimi anni. Beh, però abbiamo visto anche che il welfare in altre situazioni, così lasciato a se stesso, ha poi prodotto grandi sprechi, e soprattutto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che le aziende oggi il cash ce l'hanno, ma hanno paura, come diceva Giorgio Barba Navaretti prima, delle incertezze legate alle riforme, e dunque non investono. La borsa ieri si è ripresa leggermente, ma devo dirvi che le condizioni di fondo restano alquanto tese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito il primo album di Perfume Genius, un giovane di 26 anni di Seattle, che tra l'altro si chiama davvero Mike Andreas, e un album davvero bello, direi sorprendente, che il sito musicale Pitchfork, specializzato in recensioni, ha addirittura votato con un 8,2, quasi un massimo. Perfume Genius, la canzone Mr. Peterson. Building. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Grazie a Giorgio Barba Navarretti, goodbye and get going! America 24.